diciamo che ti fa un fatto terribile. Allora, buonasera a tutti. Per cominciare io volevo ringraziare la libreria Rinascita che come sempre ci ospita con grande affetto, anche perché noi spesso gli invadiamo un po' la libreria e paralizziamo un po' quelle che sono le attività della libreria. Loro comunque sempre con grande affetto ci ospitano e ci mettono a disposizione questo salotto che qui nella semiperiferia romana è diventato un po' il centro di un po' l'aggregativo culturale che fa molto bene a questa zona. Questa volta siamo qui a presentare Chiesa e pedofilia, lo vedete lì, un libro edito dall'Asino d'Oro e scritto dal presente qui Federico Tulli, cui dopo chiederemo un po' di cose sul libro. Abbiamo qui con noi Fulvio Iannaco, che da sempre un filosofo che si occupa di queste tematiche. Abbiamo Annelore Omber, psichiatra, e Raffaele Calcano, che è il presidente dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti, con il quale abbiamo un antico rapporto che viene da lontano, insomma. Io comincerei subito perché la tematica è piuttosto scottante. Stiamo parlando di un libro che Federico ha scritto con molto coraggio, perché insomma non è facile trattare questi argomenti, specie qui in Italia, dove diciamo il governo di Oltretevere si fa sentire sempre con molta forza, e quindi Federico ci ha messo molto coraggio, molto impegno nello scrivere questo libro e ci ha aperto un po' gli occhi su una realtà che pochi conoscevamo, non perché non si conoscesse il fatto che insomma esiste la pedofilia nella Chiesa, ma non con questa, né con questa dovizia di particolari, né con i dati che Federico è riuscito a raccogliere, a snocciolare nel libro, che sono veramente traumatici. Io per esempio ho appreso dal libro che ospitiamo qui a Santa Maria Maggiore un arciprete che era coinvolto soprattutto in caso, non proprio in un vero e proprio caso di pedofilia, ma coinvolto in quel tacere dei casi di pedofilia accaduti a Boston negli Stati Uniti, e noi lo ospitiamo qua a Santa Maria Maggiore. È un prete, anche credo un arciprete, no? Quindi un prete di grado elevato. Io non so, non conosco i gradi della gerarchia, però arciprete mi fa pensare a cosa pretori, no? Allora, quindi con una certa solennità ospitiamo a Santa Maria Maggiore, che è una delle cattedrali, una chiesa più importanti di Roma, ospitiamo, e l'ho preso da questo libro grazie a Federico. Grazie a tutti i dati che è riuscito a raccogliere, mettere insieme, e soprattutto ad analizzare un fenomeno che, ripeto, è diventato sconvolgente. Che dire? Ripeto, ci vuole molto coraggio anche sia per tutti voi, per tutti loro che comunque ne parlano, anche per me, sinceramente, sono esponente di un partito nel quale non è che poi siamo tutti d'accordo su queste tematiche, come su tanti temi etnicamente sensibili, quindi comunque noi ci diamo da fare, e quindi io darei subito la parola ad Annelore e gli chiederei subito innanzitutto che cos'è la pedofilia, ma soprattutto perché viene sempre nascosta nel silenzio, sia nella Chiesa, nelle famiglie, ma insomma se ne parla un po' sempre poco, o comunque dopo l'exploit del caso che va a finire in televisione, va a finire sui giornali, dopo poco tutto ciò svanisce. Perché? Sì, due domande da 200 punti. Posso prima dire soltanto due cose sul libro, poi così nel frattempo raccolgo le idee per rispondere, spero. Volevo dirvi, quando ho letto questo libro, dopo un po' ho pensato che i libri sono un po' come i loro autori, perché insomma forse Federico non è esattamente la persona più esibita espressionista istrionica che io conosca, e anche questo libro arriva in... Sentite meglio? Strillo? Ok. Stavo dicendo che mi sembra il tuo libro un po' come il suo autore, perché quando ho cominciato a leggere ho pensato, beh, questo è un ottimo esempio di giornalismo investigativo su un tema estremamente scottante, e come dire, mi sembrava che fosse questa la definizione del libro. Man mano andando avanti, capiterà pure a voi, vi rendete conto che il libro come minimo ha tre parti e tratta molto di più che non la ricostruzione di come sono venute fuori scandali di pedofilia all'interno della Chiesa. Che c'è la prima parte che tra l'altro racconta delle storie che credo che nessuno di noi sapeva prima, per esempio il genocidio di nativi canadesi, non ne avevo mai sentito parlare, è una Irlanda, insomma, però sono delle cose veramente agghiaccianti nei fatti. L'originalità ulteriore del libro è poi che c'è una seconda parte che cerca di affrontare la tematica dal punto di vista proprio dei pensieri che ci stanno dietro, con una critica, per esempio, che cosa è il concetto di pedofilia, come non viene normalmente proposto, e con tutta una critica a quello che è il pensiero culturale sul bambino. Ecco, questa è una cosa estremamente originale di questo libro. E poi c'è una terza parte, che sono delle interviste, grazie, che approfondiscono la cosa, e il tutto poi finisce con un documento che, dopo aver letto tutto quello che c'è prima, grazie a un impegno direi civile e umano notevole all'autore, è questo documento in cui c'è una commissione nel Vaticano che deve decidere o meno se come trattare due preti pedofili, che poi ovviamente tutto viene messo a tacere. È una specie di riepilogo di tutte le problematiche che ci sono. Quindi questo libro è una miniera, ovviamente non di fatti piacevoli, ma è anche una miniera di impegno civile e di entusiasmo personale, quindi devo dire, dopo averlo letto, ti ringrazio veramente. Allora, cosa è la pedofilia? Ricordo, in una trasmissione televisiva tedesca c'era una signora che era stata stuprata per anni in un collegio femminile cattolico, che diceva che lei aveva capito che la sessualità con la cosiddetta pedofilia o col cosiddetto abuso sessuale dei minori non c'entrava niente. Lei diceva che è una questione di potere, potremmo dire di violenza, cioè di un potere che un adulto cerca di, o molte volte riesce a esercitare su un bambino, con l'intento di annientare, distruggere completamente l'identità del bambino. E qui devo fare subito una autocritica alla mia disciplina, perché io sono psichiatra e nei sistemi classificatori della psichiatria, e nel libro questa cosa è riportata, la cosiddetta pedofilia, parola che è già una ipocrisia totale, perché amore per il fanciullo non c'è per niente, è la cosiddetta violenza cosiddetta sessuale, viene sempre riportato tra i disturbi della sessualità. C'è un intervento di un collega molto acuto che dice che la sessualità con questo non c'entra assolutamente niente, perché bisogna pensare che si possono utilizzare i genitali, ci può essere una forma di eccitamento, ma in verità il motivo, il traguardo, l'intenzionalità dietro questo comportamento apparentemente sessuale è tutt'altro. Cioè, dovremmo arrivare al coraggio di dire che sessualità non vuole mai la distruzione dell'altro, vuole l'evoluzione, la realizzazione reciproca. Qui invece è qualcosa che mira a distruggere il bambino. Al che ovviamente la domanda è: perché i bambini vengono così presto, così spesso preso come oggetto di questi attacchi? Evidentemente il bambino va a rappresentare qualcosa che un adulto malato, criminale, non riesce a sopportare. E qui entreremmo in un'idea della psichiatria che è molto diversa da quella che c'è abitualmente, perché dovremmo non più occuparci del comportamento, ma quello che è l'intenzionalità dietro il comportamento. Io posso dire a una persona io ti amo, e può essere veramente amore, ma può essere anche l'odio più puro o l'annullamento più più totale, quindi di indagare che cosa sono le intenzionalità che le persone hanno dentro, cosa va dal dentro delle persone verso l'esterno al limite per aggredire e per annientare e per distruggere, e di solito si attacca a qualcosa di vitale, di importante, di prezioso. Quindi la pedofilia è l'attacco, direi, abbastanza totale, criminale, estremamente patologica all'identità del bambino. A che posso anche dire che, contrariamente a quello che dicono 2000 anni di cultura, tra virgolette, sul bambino, evidentemente il bambino ha una identità, una umanità, qualcosa di estremamente importante e prezioso ce l'ha, altrimenti il pedofile, cosiddetto pedofile, non attaccherebbe. Facciamo un rapido giro, no? Un rapido giro che poi lo vediamo. Raffaele, e io tu normalmente dibatti spesso su per queste tematiche, perché insomma sono proprio uno degli argomenti principali che portate avanti all'Unione Atei Agnostici Razionalisti. Appunto, voi come vedete questo rapporto appunto fra la Chiesa e i giovani, e come analizzate questa problematica? Rispondo al volo, faccio un discorso più ampio. Come vedo il rapporto tra la Chiesa e i giovani? Bisognerebbe forse pensare a come si vede il rapporto tra le religioni e la sessualità, nel senso che quello che diceva prima la relatrice, cioè la volontà di annichilire in qualche modo l'identità del bambino, può valere in qualche modo anche per il modo con cui le religioni si approcciano alla sessualità, perché le religioni, il panorama religioso c'è di tutto, da riti orgiastici fino alla completa negazione della sessualità, ben oltre a quello che potrebbe fare la Chiesa. Quindi in questo ambito trovare un fil rouge è difficile, ma può essere proprio nella volontà di annullare l'identità del fedele, sia attraverso i riti orgiastici, perché paradossalmente spingono le persone a fare qualcosa che va oltre le loro intenzioni, sia attraverso la negazione totale della sessualità, che spinge qualcuno a restare completamente da questa parte, quindi a non accedere, diciamo così, all'espressione più libera della propria sessualità. Quindi una certa volontà di controllo che c'è nella religione, che se si unisce a queste patologie, diciamo così, che sono state descritte prima, ovviamente possono amplificare il fenomeno notevolmente. Di solito quando vado queste serate si aspettano da me qualche uscita, diciamo così, anticlericale, che in realtà non vorrei fare, sia perché la nostra associazione, diciamo così, non va in questa direzione, sia perché basta aprire i giornali, la Chiesa Cattolica, diciamo così, da questo punto di vista si fa del male da sola senza bisogno che qualcuno, cioè, non so se avete sentito, oggi hanno arrestato il maggiordomo del Papa, sembra veramente di essere, diciamo così, in una barzelletta, però in questo momento il maggiordomo del Papa è stato arrestato in Vaticano. E lasciamo perdere tutto il resto, De Pedis, Orlandi, il presidente dello IOR, eccetera, eccetera. Insomma. No, mi soffermerei invece su un aspetto, diciamo così, qualche aspetto più razionale. Come il libro, perché di libri su questo tema ne sono usciti negli ultimi tempi diversi, ma sono tutti molto sul versante, diciamo così, scandalistico. Il fatto che questo sia scritto un giornalista sicuramente aiuta, perché perlomeno spinge alla ricerca, ma appunto, come è stato già detto, un libro estremamente documentato e che aiuta a capire, diciamo così, il fenomeno sotto diverse sfaccettature. Io do un altro punto di vista, semplicemente parto da un'informazione. Nell'aprile di 2 anni fa l'UOR ha registrato il suo picco storico di download del modulo di sbattezzo, in contemporanea con l'acme, perlomeno in Italia, del fenomeno della pedofilia. Questo è estremamente significativo, cioè da un certo punto di vista uno come me può essere anche contento, dall'altro un po' meno, nel senso che la ragione per cui si abbandona la Chiesa Cattolica, tra virgolette, non è razionale, ma probabilmente molto emotiva. Ebbene, tante persone, cioè migliaia di persone in quel periodo hanno abbandonato la Chiesa Cattolica, ed è un fenomeno che è stato registrato anche all'estero, cioè Belgio, Germania, eccetera, è stata proprio una crisi pesante in quel periodo. Ecco, perché è accaduto? Perché questo smuove così tanto le coscienze come prima non accadeva? Sicuramente viviamo in un contesto diverso, cioè Federico nel suo libro dice la concezione del bambino è cambiata recentemente, negli anni recenti, poi ovviamente lo spiegherà meglio lui. C'è anche è cambiata anche la concezione dello stupro, prima avveniva ma non si diceva. È cambiata anche, dobbiamo ammetterlo, la nostra civiltà, nel senso che comunque è più facile scrivere di certe cose. Cioè 200 anni fa Federico non avrebbe potuto scrivere questo libro se non nelle segrete di Castel Sant'Angelo, perché chiaramente cose del genere non potevano essere dette e comunque accadevano, perché comunque non è un fenomeno nuovo. È nuovo il fatto che emerge grazie appunto a lavori di inchiesta, emerge grazie al fatto che finalmente ci sono le vittime cominciano a denunciare, insomma riescono a trovare uno sfogo e anche qualcuno che li ascolti, perché prima purtroppo questo era il grande problema, non c'era nessuno che stava ad ascoltarle. In questo contesto completamente nuovo, qual è l'atteggiamento della Chiesa cattolica? Non si può dire che non lo affronti, e tra l'altro, se vogliamo, lo affronta, spezzo una lancia a loro favore, lo affronta ad esempio non intervenendo sui seminari, cosa di cui si parla poco, ma effettivamente si è resa conto che una struttura obbligante come quella di un seminario, in cui per bambini di 11-12 anni venivano, diciamo, reclusi in vista della carriera ecclesiastica, insomma, gli effetti potevano essere quelli di qualunque struttura obbligante, pensiamo alle carceri, pensiamo all'esercito, cioè il fenomeno del nonnismo da questo punto di vista non è differente. Strutture di quel tipo generano purtroppo effetti di questo tipo, e va detto che appunto Ratzinger, per esempio, sta portando avanti una politica di, insomma, favorire le vocazioni tardive, cercare, diciamo così, sacerdoti tra le persone che magari hanno avuto qualche esperienza sessuale, non ne sono rimasti troppi convinti, perché una parte della popolazione comunque ha un approccio, diciamo così, soft, diciamo così, nei confronti della sessualità. E non è sbagliato da questo punto di vista puntare su questa fascia della popolazione. Il problema è ovviamente grosso, ed è quello che viene affrontato molto bene Federico, il problema delle coperture, perché parliamoci chiaro, se un pedofilo ovviamente va a cercare delle strutture in cui siano presenti i bambini, è inevitabile. E quindi non è solo la Chiesa che può essere potenzialmente vittima, può essere la scuola, possono essere le associazioni sportive. Il problema è avere gli anticorpi necessari per far fronte a un fenomeno quasi inevitabile, oserei dire. Ecco, la Chiesa, secondo il mio modesto parere, non ha questi anticorpi, perché a differenza di altre realtà dove si interviene e si può intervenire, diciamo così, radicalmente, la Chiesa ha questo atteggiamento che non è solo, diciamo così, limitato al fenomeno della pedofilia, ma è molto più allargato, di proteggere sempre l'istituzione. Cioè tra il mettere in discussione l'istituzione e il fare, diciamo così, un mea culpa per fare pulizia, perché ogni tanto bisogna fare pulizia, la Chiesa non riesce a decidere e a muoversi nella direzione che io reputo giusta. Il libro documenta molti di questi casi, le linee guida che sono uscite nei giorni scorsi vanno ancora in questa direzione. Io sono convinto che per quanto riguarda la Chiesa sia nella società attuale una politica suicida. Per quanto riguarda lo Stato, nasce qui la domanda ovviamente, ma per quale motivo lo Stato deve continuare a finanziare e avere rapporti così vicini con un'istituzione di questo tipo? Ma questa è una domanda da fare soprattutto ai politici. E quindi io una domanda un po' più politica la vorrei fare, a riservare per Fulvio, perché come uno studioso del pensiero, e a lui vorrei proprio chiedere, appunto, nell'evoluzione della storia del pensiero democratico, come si è caratterizzata questo rapporto fra politica e religione e appunto nell'evoluzione del pensiero. Ma prima di tutto ringrazio Dio, Rinascita, Federico che ha scritto questo libro e anche naturalmente questa coraggiosissima casa editrice che ha pubblicato questo libro. Prima di rispondere a questa domanda però io vorrei sottolineare, perché secondo me la risposta poi ne deriva, vorrei rispondere premettendo un paio di affermazioni che risultano molto chiaramente dal libro di Federico e da tutto un patrimonio che abbiamo ormai, perché questa non è la prima presentazione di questo libro, di incontri che sono disponibili per essere visti perché sono tutti registrati, in cui l'analisi che Federico fa e documenta nel suo importantissimo libro viene commentata, arricchita, collegata anche alla storia del pensiero filosofico, anche alle radici della storia del pensiero, fino a dimostrare, direi, non vorrei ora doverlo risostenere, ma se è necessario lo possiamo fare, che il pensiero della Chiesa Cattolica, come del resto dichiarava, Federico lo riporta, lo stesso documento dell'inchiesta governativa irlandese, è coessenziale alla pedofilia. Cioè è il pensiero religioso cattolico che per la sua storia, per il suo modo d'essere, per tutta la sua antichissima tradizione, non può che essere tale da esprimere comportamenti di questo genere e, come diceva appunto Raffaele ora, da inevitabilmente proteggerlo. È il pensiero che deriva dal mito di Isacco, che deriva dal fatto che fin dai tempi più remoti il bambino può essere ucciso. Se... come ha reagito il pensiero democratico poi, se è possibile, vorrei documentare meglio queste affermazioni. Quindi qui non si tratta di fare pettegolezzi, non si tratta di scandalizzarsi per qualche evento marginale, qui si tratta di qualche decina di secoli, e lo vediamo nel libro di Federico, fin dai primissimi anni, quanti erano i papi pedofili? 12? 17, difetto. Si sia sviluppata nei secoli, qui si tratta di capire quale sia allora l'atteggiamento di chi vuole contrastare questo tipo di cultura, questo tipo di pensiero, perché appunto caratterizzato dalla violenza contro i bambini, oltre che naturalmente contro le donne. Allora, l'atteggiamento di quello che mi chiede appunto lui, del pensiero democratico, beh, lo sapete, c'è tutta una storia che comincia con l'evoluzione francese, che prosegue con Feuerbach, che continua con Marx, e continua fino ad oggi, e continua attraverso la rivoluzione d'ottobre, Lenin, Gramsci. Ne possiamo parlare, se volete, più a lungo. La domanda che adesso a me preme proporvi, se vi interessa, è che questa specifica presentazione di questo libro, dopo altre, e perché questo libro abbia una diffusione più ampia possibile, si pone in un momento particolare della storia, direi, del paese, in cui da 2 settimane, ecco il pensiero democratico, l'organo più importante, storico, più determinante, direi, della storia del pensiero democratico, se vogliamo usare questa espressione, l'Unità, fondato nel 24, come tutti sappiamo, da Antonio Gramsci, esce tutti i sabati insieme all'unico organo di stampa presente nel mercato editoriale italiano che si lega ad una ricerca, ad una teoria che è radicalmente e perfettamente ateistica. Allora, secondo me, è questo incontro, è cosa può contenere questo incontro e come si può sviluppare questo incontro, l'organo storico del movimento operaio con un giornale come Left, che può aiutarci, può servirci a capire che destino possa avere questo tipo di percorso, e se lo possa avere, E allora anche magari nell'intervento che vorrei, se possibile, fare dopo, cercare di rintracciare quella storia che dicevo prima di come è andata fino adesso, di come fino adesso è andata, come fino adesso il pensiero democratico si è rapportato, e allora quindi non finisce, non ti rispondo ora, alla questione religiosa. Grazie. Torniamo da Nelore. In questi ultimi tempi abbiamo visto che non appena accade qualcosa nella Chiesa, non appena c'è uno scandalo, tutti troviamo centinaia di persone pronte a scrivere lettere, perorare cause, dire ma quel prete era bravo, ma insomma tutta una serie di si mette in moto tutto un circuito di protezione, no? Che poi ci fa pensare se quanto casi di pedofilia siano un rapporto soltanto fra vittima e molestatore e quanto invece tutta questa rete di omertà, tutto questo cancan mediatico che si mette in moto abbia una corresponsabilità nell'accaduto. E su questo magari sarebbe importante accentrare un attimo l'attenzione. Ti ringrazio perché è proprio un punto che mi premeva dire oggi. Io penso che questa cosiddetta pedofilia sia sempre una storia che abbia tre componenti, cioè la vittima, l'aggressore e quello che potrei chiamare il terzo, la funziona? Sì, la terza istanza, che nei casi che noi vediamo così a studio nell'ambulatorio psichiatrico, perché molte volte la maggior parte delle case di abuso avvengono in famiglia, non avvengono neanche in chiesa, insomma, quindi quello che vediamo tutti i giorni è la storia bambino o adulto che è stato bambino, chi l'ha aggredito e poi c'era la famiglia, molte volte la madre, comunque i parenti che non hanno proprio visto o che hanno fatto finta di non vedere, si hanno taciuto o che non solo hanno taciuto, hanno anche creduto di non vedere, perché si dice sempre perché scombussolava troppo la vita familiare, c'è una indipendenza economica non esistente della madre, ma penso sotto che ci sia anche una connivenza, si va a scavare nel profondo, una connivenza, una complicità nell'essere d'accordo col fatto che il bambino vada in qualche maniera distrutto. Credo questo si possa dire. Quello che noi vediamo tutti i giorni, ho calcolato con adesso a studio dalle persone che seguo, un 10% ha storie di abusi di questo tipo, continuativi e non piccole cose. Quindi quello che vediamo tutti i giorni, credo si possa dire anche questo rapporto qui con la Chiesa, con le istituzioni, in cui la Chiesa fa proprio la parte della terza dimensione che non funziona, che preferisce non vedere, oppure se vede, dire che la cosa non ha nessuna importanza. Sotto sotto posso dire perché c'è sempre un'intenzionalità che il bambino va distrutto. A livello più superficiale c'è il discorso culturale che è lungo di 2000, forse 3000 anni, che dice che alla fin fine il bambino non è importante, il bambino non ha ancora quello che noi chiamiamo un io. Quindi un bambino va plasmato e forse li fa addirittura bene, perché il concetto, no, della pedagogia greca era che un bambino della classe sociale elevata per essere forgiata doveva essere amante del suo maestro, no? Quindi era proprio un concetto di pederastia concatenata nella cultura greca. Quindi c'è questa idea che, come dire, col bambino si può fare qualsiasi cosa, intanto non ha nessuna importanza perché non è ancora nulla. Credo che ci sia anche questo, in questo silenzio, in questa, quello che sembra veramente, leggendo questi documenti, è una quasi in buona fede, una incomprensione delle commissioni vaticane, di ma che cosa è successo? Insomma, tutto sommato, insomma, è stato soltanto così abusato, stuprato un bambino, chi sarà mai? Non lo dicono in questi termini, ma viene fuori questa cosa qua. Quindi non c'è soltanto quella cosa che è di un irritante, che è di un insopportabile, perché è un cittadino che c'è uno Stato che si arroga diritto di costituire in ogni Stato europeo uno Stato a sé stante. Visto anche non solo in Italia, ma per esempio in Germania, anche quasi la incomprensione per le istituzioni democratiche e dello Stato di diritto con cui le autorità ecclesiastiche tranquillamente sostenevano che questi che sono reati in ogni Stato europeo è una prerogativa della Chiesa che magari mandava il prete in un'altra parrocchia, ma tutto sommato, come dire, è una cosa all'interno della Chiesa, cioè non c'era neanche l'idea dello Stato di diritto, e questo trovo, sono pienamente d'accordo con te Raffaele, io non insopportabile, non, credo che sia una cosa anacronistica che non è più accettabile. Ma oltre a questo, e qui la faccio finita, c'è questa cultura o non cultura per la quale il bambino, che è qui me la prendo pure col pensiero razionale, speriamo questo appunto non ci crea difficoltà nei nostri rapporti diplomatici, così, c'è una lunga tradizione, Fulvio ce ne parlerà, per cui il bambino finché non ha 7-8 anni scrive, eccetera, esercizia il raziocinio, non è ancora veramente un essere umano, che sarebbe la tavola rasa, la tavoletta di cera, insomma, e quindi qualsiasi cosa che succede a un bambino tra la nascita e 6-7 anni, che vuoi che sia, insomma, ecco, e questo è una cosa culturale che per fortuna evidentemente non ci corrisponde più, anche se non ha trovato, se non in posizioni avanguardistiche che in questo libro vengono documentate, un'espressione a livello scientifico, perché alle università tuttora vi insegnano che il bambino piccolo è una tavoletta di cera e in qualche maniera, insomma, non dicono più ci puoi fare quello che ti pare, ma c'è sempre questa idea che un'identità umana vera e propria del bambino piccolo non c'è. Invece abbiamo tutto. Invece dicevo, abbiamo visto come i principali danni diciamo alla mente, i principali danni psichiatrici vengono causati proprio in quella fascia d'età, no? E andiamo da Raffaele, e io una domanda proprio particolare, nel senso, razionalmente parlando, ma alla Chiesa quanto conviene continuare a comportarsi in questo modo e quanto invece converrebbe loro aprirsi e comunque denunciare questi casi per avere più il favore della popolazione e comunque quella loro missione è fare adepti, no? Quindi perché continuare a comportarsi in questo modo anacronistico, ma soprattutto veramente poco attuale in un momento di una comunicazione liquida come quella odierna? Si comportano così sostanzialmente perché pensano di vivere in una società ancora plasmabile, uso la parola appena usata dalla relatrice. Faccio un esempio che viene dal Giubileo del 2000. Le scuse di Wojtyla furono un bel successo mediatico. In realtà Wojtyla non chiese scusa alle vittime per i peccati commessi dalla Chiesa, ma chiese scusa a Dio per i peccati commessi dai figli della Chiesa. Se ci si sofferma un attimo si nota che la differenza è enorme. Fu però una bella operazione mediatica perché riuscì, diciamo così, a far passare l'idea che la Chiesa aveva chiesto scusa per i suoi errori quando in realtà non l'aveva fatto assolutamente. Prendo questo perché è abbastanza paradigmatico da questo punto di vista. Si cerca sostanzialmente di fare la stessa cosa. E diciamo in Italia con i mezzi di informazione italiani è probabilmente anche più facile farlo, voglio dire, basta vedere come la stampa, diciamo a parte di poche eccezioni come il giornalista qui presente, tratta casi di questo genere. Ma quanto può durare questo? Già la stampa l'ultima occasione, cioè le linee guida giorni fa, comunque è stata, devo ammettere, più sincera del solito, nel senso che ha ammesso questo fatto abbastanza grosso della mancanza dell'obbligo di denuncia in capo ai sacerdoti nel caso venissero a sapere qualcosa, è stato rilevato quasi da tutti, si potrebbe dire, grazie, cioè, se no cosa serve la stampa? Vi garantisco che in altri casi, tipo ad esempio il famoso motopop proprio che fece 2 anni fa Ratzinger, che paradossalmente era quasi una chiusura da questo punto di vista, la stampa italiana lo presentò come un'apertura, importante intervento liberatorio, eccetera, eccetera. Quindi certi comportamenti sono messi in pratica perché si pensa ancora di vivere in una società di altro tipo, di altri tempi. Può darsi che l'Italia effettivamente, perlomeno formalmente, perlomeno per ciò che pare, sia ancora una società di altri tempi. E faccio il paragone con una società più cattolica dell'Italia, cioè l'Irlanda, dove l'Irlanda è l'unico paese dell'Europa occidentale dove, figuratevi, non c'è ancora una legge sull'aborto, tanto è cattolica, e dove la percentuale di non credenti è bassa. È l'unico paese occidentale dove la percentuale di non credenti è veramente bassa. Ecco, persino in un paese del genere il comportamento della Chiesa cattolica è stato talmente urtante nei confronti dell'opinione pubblica che il premier irlandese prima ha praticamente interrotto i rapporti diplomatici, nel senso che non ha nominato nemmeno l'ambasciatore presso la Santa Sede. Poi, vista che la posizione della Chiesa Cattolica nei confronti dei rapporti che sono usciti, che sono veramente pesantissimi, cioè nel senso si parla di decine di migliaia di vittime, quindi non si tratta di il caso sporadico la mosca bianca, si tratta proprio di un sistema, che tra l'altro è stato denunciato già dal film Magdalene, non so se lo ricordate, che era un film ambientato proprio in Irlanda molti decenni fa. Ecco, non solo ha interrotto le relazioni diplomatiche, ma anche nei giorni scorsi è uscita la responsabilità del più importante, del cardinale irlandese, quindi il primate d'Irlanda, è uscita la responsabilità di questo prelato nella copertura di casi pedofilia. Il premier ha chiesto le dimissioni del cardinale Brady. Cioè, vi immaginate Monti che ci viene un po' da ridere. Ecco, siamo in una situazione molto diversa, però siamo anche in una situazione in cui, a mio modo di vedere, il premier irlandese percepisce meglio gli umori della popolazione di quanto facciano i politici italiani. Quanto questa situazione possa, diciamo così, andare avanti e quindi permettere anche alla Chiesa di svicolare dalle sue responsabilità sulla questione, ovviamente io non credo nelle profezie, quindi mi guardo bene dal fare qualsiasi previsione, però ragionevolmente, diciamo così, si può pensare che non potrà andare avanti molto. La società sta andando verso una certa strada, la Chiesa in qualche modo cercando magari, diciamo così, di perdere meno pezzi possibili, ma si adeguerà prima o poi, e quindi da questo punto di vista sono convinto che qualcosa di più sostanzioso verrà fuori, magari non nei prossimi anni, magari nei prossimi decenni, perché i tempi della Chiesa si sa sono secolari, ma non potrà far finta di niente. Grazie Raffaele. Torniamo da Fulvio. Fulvio, torniamo a parlare di pensiero un attimo. E una cosa mi viene, sempre uno dei miei dubbi, ma cosa manca al pensiero democratico per uscire da questa ambiguità nella quale ci troviamo spesso e appunto che non riusciamo a scolarci di dosso, per la quale poi spesso si allontanano degli elettori di sinistra o comunque delle persone che normalmente sarebbero il nostro elettorato, ma che non riusciamo più a catturare proprio per questa ambiguità? Non mi devi dare un minuto? Perché devo anche prendere la domanda precedente, la storia di questa cosa. Storia, ho detto troppo. La storia di questa cosa. Allora io, ripeto, non lo dimostro, perché credo che lo dimostri il libro di Tulli e credo che lo dimostri tutta la storia di questi dibattiti, però se volete ne possiamo parlare. Io non sono tanto interessato a un adeguamento della Chiesa Cattolica ai tempi moderni. Io sono interessato ad affermare che questa cultura religiosa che esprime la pedofilia ed esprime la violenza sulle donne, che in certe epoche della sua storia preferisce usare perché può permetterselo il massacro, e in altre il massacro fisico, in altre preferisce usare il dominio delle menti degli uomini dall'interno, nella storia del pensiero democratico, a partire almeno dalla rivoluzione francese, è stata contrastata, si è tentato di contrastarla, ma evidentemente, visto che è tuttora lì e ben forte di fronte a noi, molte cose ha ragione Gianluca, sono mancate. La rivoluzione francese si diceva laica. E parliamo un attimo di questa questione della laicità. La parola laica, noi bisognerebbe la smettessimo di usarla. La parola laica è una parola dei preti, sono laici quella parte della società medievale non chierica, no? Non è stata ordinata sacerdoti. Laici e chierici nel Medioevo sono due parti della società dominata dalla Chiesa, tutti e due al servizio della Chiesa. Non mi pare che questa connotazione di laicità abbia portato molta fortuna. Essere laici non vuol dire affatto, dirsi laici non vuol dire affatto sottrarsi al dominio culturale di pensiero religioso. Vuol dire anzi aderire, anche senza rendersene conto, semplicemente ammettendo che questo dominio non possa mai terminare, a questo stesso pensiero. La rivoluzione francese era fatta, voi sapete, guidata da intellettuali illuministi. Pensarono, certo stupidamente, come spesso gli intellettuali illuministi sono, di poterla combattere, il pensiero religioso, con i decreti, con le leggi, con l'imposizione di una forza dello Stato. Naturalmente, come tutti sapete, per questa strada si finisce ghigliottinati dal Termidoro. Robespierre, negli ultimi momenti della sua vicenda, quando vedeva che tutto era perso, dopo aver cercato in tutti i modi di contrastare il dominio precedente, si inventa anche lui una forma religiosa, perché si convince che l'unico modo per muovere le masse sia la religione, cosa in cui sarà poi seguito da Hegel e da tanti altri, e quindi si inventa il culto dell'essere supremo, ma un anno dopo viene ghigliottinato dai suoi nemici e la restaurazione termidoriana riporta in auge la società dell'ancien regime, praticamente già. Feuerbach, più avanti, 1848, 41 il suo libro, 48 la rivoluzione a cui partecipò, l'essenza del cristianesimo. Di Feuerbach, io sarei curioso di vedere se l'essenza del cristianesimo sta in questa libreria, perché è sparito anche dalle librerie, se in questo momento sta in questa libreria. Io varie volte l'ho cercato in altre librerie e non l'ho trovato, magari qui c'è, siamo alla Rinascita, però non è detto. L'essenza del cristianesimo è un libro che dice già tutto. È un libro in cui si afferma che, come sapete, che la religione è un fenomeno per il quale non Dio crea gli uomini, ma gli uomini creano Dio. È un fenomeno per il quale una proiezione della mente umana in un infinito sottopone l'uomo ad un padrone esterno. La critica di Feuerbach era piuttosto ricca, piuttosto completa. In quel tempo suscitò degli entusiasmi straordinari, ma poi non bastò. Quando arrivò Marx diceva che ormai era già stato fatto tutto, che la critica di Feuerbach, lui diceva la critica della filosofia, l'aveva fatta finita con la religione. Naturalmente non era così, qualcuno poi ha parlato di quella affermazione marziana come dell'eiaculazione precoce di Karl Marx. Certamente Feuerbach non ebbe successo perché probabilmente, qui torniamo alla parola laicità, non basta attaccare, come tanti cosiddetti laici fanno, un Dio in cima agli altari o i papi sui fogli pontifici, se poi si creano altri dei nella nostra stessa mente. Feuerbach aveva avuto il coraggio di sfidare Dio, ma non ebbe il coraggio di sfidare sua moglie. E la laicità non si pone il problema dell'alienazione religiosa. Per cui se magari uno riesce a sottrarsi al prete, poi magari adora la fidanzata, il capo partito, o purtroppo tante volte, se ci guardiamo intorno, ce ne accorgiamo parecchio, anche semplicemente se stesso. E non è quello che ci interessa. Noi credo quindi che sarebbe il caso, come dicevo all'inizio, parlando dell'incontro dell'unità con l'Est, di rivendicare questa parola che è ateismo e che ha una tradizione ben più valida, perché si presuppone, si basi su una critica teorica, su una visione, vogliamo dire filosofica, ma i filosofi, tolti quelli che dai preti di solito sono stati ammazzati, non si sono mai posti la questione di chiedersi da dove venissero le loro idee, hanno sempre pensato che prima della nascita di ciascuno di noi ci doveva essere pur qualcosa, se non era Dio era lo Spirito Assoluto, se non era lo Spirito Assoluto era la ragione. I filosofi poi hanno avuto praticamente tutti il problema di non porsi mai la questione di chiedersi se per caso il pensiero di ciascuno di noi è esclusivamente quello che loro riescono a immaginare, cioè quello razionale, o se per caso c'è un'altra forma di pensiero, c'è un altro momento del pensiero che i filosofi non hanno mai studiato, che invece ci caratterizza di più. I rivoluzionari francesi, la Francia, ha prodotto una legge di laicità assolutamente invidiabile. C'è una legge che è la legge del 1904, che è tuttora in vigore in Francia. Io mi sono sempre chiesto perché il Movimento Democratico in Italia non l'abbia mai voluta fare propria, anche se poi la risposta in realtà la so, in cui all'articolo 2, all'articolo 1 si dice che Stato e Chiesa sono separati. Vi faccio notare che nella nostra Costituzione non c'è neanche la parola laicità, non c'è neanche scritto che, come in altre costituzioni è scritto, ogni cittadino è libero di credere nel culto che preferisce o in nessuno, non c'è neanche questa precisazione. Nella Costituzione francese, nella legge francese, c'è questa legge 1904 in cui si è fatto divieto allo Stato di finanziare in nessun modo qualsiasi forma di espressione religiosa, cioè lo quale, sono, per far prima non ve la leggo, io non credo che nessuno mai abbia proposto in questo paese una legge del genere, la butto là, se qualcuno lo volesse fare potrebbe essere una buona idea, un articolo 2 molto breve che dica semplicemente che è fatto divieto allo Stato di finanziare, che la religione è libera, che lo Stato e la Chiesa sono separati, che ognuno può fare del proprio tempo libero quello che vuole, ma che lo deve fare con i propri soldi. I francesi e i razionalisti sono arrivati a fare cose come questa che noi non abbiamo e che faremo bene a cercare di avere, ma il problema loro è che, come diceva qualcuno anche recentemente, non hanno mai capito da dove viene la ragione. Non si sono mai posti queste domande fondamentali su che cosa sia questa forma di pensiero e conseguentemente sotto sotto sono sempre timorosi della possibilità di pensare che venga dallo Spirito Santo. Non lo dicono, ma lo temono. Molti di loro, per esempio il fondatore del positivismo, Louis Comte, dopo aver per tutta la vita predicato un pensiero positivistico, appunto era lui che lo diceva, assolutamente razionale, eccetera, finì inventandosi una religione in cui l'essere supremo era rappresentato dalla statua della sua fidanzata che gli era morta poco tempo prima. Dopo Feuerbach, Marx tentò di dire che appunto la critica della religione era stata già fatta e che quindi si trattava di fare altro. Questa cosa evidentemente non bastò, in realtà se poi c'è stato Stalin è evidente che magari uno può non credere in Dio, ma poi crea dei di altro genere. Volevo però arrivare a Lenin, perché poi mi premerebbe passare da Gramsci un attimo, se posso. Lenin aveva detto nel 1922, in un testo che si chiama Sul significato del materialismo militante, aveva già messo in guardia i comunisti dall'illusione di poter edificare il socialismo senza l'aiuto dei credenti. Lenin. Gramsci, che è quello dell'uomo nuovo, è quello dell'egemonia, è quello che pensa che una battaglia culturale possa essere portata avanti e trasformare una società anche senza l'uso della forza. Aveva detto invece: il Vaticano è la più grande forza reazionaria esistente in Italia, forza tanto più temibile quanto più insidiosa e inafferrabile. Aveva ragione, ma come sapete gli fu tolto molto presto il tempo di pensare ancora. E poi, dopo la morte di Gramsci, naturalmente, e chissà, ora in questi giorni si parla tanto di come andò a finire la storia di Gramsci, se per caso qualcuno volle che restasse in galera, oppure se questa tesi non è sostenibile. Stalin, che aveva fatto una politica ateistica fino al 1940, quando si trovò di fronte all'invasione nazista, in prossimità dell'invasione nazista, fece appello alla religione ortodossa, pensando che la Chiesa ortodossa sarebbe stata capace di mobilitare molta più gente di quanta il Partito Comunista ne potesse mobilitare, e finalmente scrisse: fin dai tempi più remoti il popolo russo è pervaso di sentimento religioso. Questo è Stalin, non il Papa. La Chiesa, dopo l'avvio delle operazioni militari contro la Germania, si è mostrata nella sua luce migliore. Il partito non potrà più privare il popolo delle sue chiese e della sua libertà di coscienza. Come sapete, in quei tempi a Mosca c'era Togliatti, che poi, faccio proprio una roba da pillolette, chiedo scusa ai cultori, tornato in Italia, si fece portatore della politica dell'internazionale fino al momento in cui, il 25 marzo 1947, dopo la svolta di Salerno, i comunisti, non i socialisti, non gli azionisti, ma i comunisti, annunciarono e motivarono il proprio voto a favore dell'articolo 7 della Costituzione, che è quello che ancora abbiamo sulla testa e che è quello che, come sapete, regola, sia pur riformato, i rapporti tra Stato e Chiesa nel nostro Paese. Con questa frase di un lunghissimo discorso che, se volete, è a vostra disposizione, non vi è contrasto fra un regime, lui portava ad esempio la Russia, e ti affermava Togliatti, che non vi è contrasto fra un regime socialista e la coscienza religiosa di un popolo, non vi è contrasto fra un regime socialista e la libertà religiosa della Chiesa, e in particolare di quella cattolica. Poi c'è la storia di Berlinguer, di cui oggi l'Unità pubblica, ma io non l'ho visto, ampi pezzi. E dell'articolo 5 dello statuto del partito, scusate, ho perso il foglio e sono rovinato, no, eccolo. Nel 1976 Enrico Berlinguer rispondeva a Monsignor Bottazzi, che all'epoca era vescovo di Ivrea, e a un articolo dell'Osservatore Romano, che si chiedeva che cosa avrebbe fatto il PC dell'articolo 5 del proprio statuto, cioè come avrebbe conciliato il riconoscimento del valore della fede religiosa con l'ideologia marxista-leninista. L'articolo 5 dello statuto di allora imponeva agli iscritti al partito l'adesione all'ideologia marxista-leninista. Nel febbraio 78, il 15° congresso comunista abrogò l'articolo 5, tolse questo riferimento, modificò anche con altre due tesi la 16 e la 68 i propri contenuti ideologici, fino ad affermare che i militanti del PC non erano più obbligati a riconoscere e ad applicare il marxismo-leninismo, il programma politico del partito era compatibile con la fede religiosa del militante. Berlinguer, in una sua famosa frase di allora, scrisse che il PC non era un partito né teista, né ateista, né antiteista. Il partito diventò un partito pragmatico. E vediamo se risolvo fogli iniziali. Ecco, scusate. E da allora noi siamo qui a chiederci se questa scelta di essere appunto non portatori di una visione chiara, di una linea chiara di pensiero, sia la scelta migliore. Probabilmente ci sarebbero alcune domande da farsi. Se noi vogliamo chiedere agli elettori di votare per noi, forse dobbiamo avere l'impressione di avere le idee chiare su alcune questioni fondamentali. Per esempio, se sapere, dire se sì o no esiste un prima oppure no della nascita umana, se esiste oppure no qualcosa che determina dall'esterno la vita degli uomini, se per esempio il tempo ha un inizio, ha una fine o se per caso è eterno, se noi non siamo in grado di esprimere una cultura, un pensiero, rispondere a qualche domanda del genere, come possiamo pensare di contrastare un pensiero di 2000 anni come quello della Chiesa cristiano-cattolica, che è rimasto ben saldamente e ben validamente legato a dei patrimoni culturali antichissimi, si è dotato del patrimonio della cultura romana, attraverso Agostino e Tommaso ha costruito un castello inattaccabile. Possiamo pensare di contrastare un pensiero così complesso e religioso come quello della Chiesa senza avere noi un pensiero adeguatamente in grado di rispondere a domande del genere? Possiamo questa storia del pensiero democratico, che ha sempre più ceduto la propria capacità di pensare a non si sa quali altre agenzie, averla autonomamente se non riusciamo a prendere questo tipo di riferimento? Ecco, la cosa che sta succedendo adesso, l'incontro dell'unità con Left, vorrebbe essere, io spero che possa essere, voglio che sia, spero che nell'unità, nel Partito Democratico, ci sia qualcuno che ha voglia di fare questo tipo di percorso che non è mai stato fatto, in tale da potersi riferire a un pensiero, ad una struttura di pensiero che esiste e che può rispondere a quelle domande che poco fa dicevo. Grazie. Bene. Grazie Fulvio, sei sempre così puntuale e preciso. Infatti ricordiamo a tutti appunto che domani esce l'unità con Left a soli 2 euro. Poco prima di venire qua ero con il direttore sardo per pianificare la festa e mi diceva che l'ultimo sabato hanno fatto più 70% nelle vendite, quindi io dico che il risultato insomma è tangibile sotto gli occhi di tutti, quindi tutti noi speriamo in questo matrimonio che s'aveva da fare e abbiamo fatto insomma piano piano. Io dicevo un altro, come? Vabbè, questa, i promessi sposi purtroppo abbiamo dovuto leggere tutti, quindi e raccolgo invece l'invito di Fulvio sulla modifica costituzionale. Sapete, modificare la Costituzione richiede ben 4 passaggi parlamentari, 2 alla Camera, 2 al Senato, una cosa terribile. Sì, no, vabbè, la legge ordinaria è in Francia, in Italia no. No, però dicevo, siccome proprio in questo momento andiamo in tema di riforme istituzionali e sarà sicuramente toccata la Costituzione anche per quanto riguarda la nostra legge elettorale, magari se lo scriviamo insieme l'emendamento costituzionale. No, vabbè, tu me li suggerisci, io ci penso io a scriverlo. E dopodiché, dopodiché lo facciamo presentare alla nostra capogruppo al Senato, che sicuramente aderirà, Anna Finocchiara sicuramente aderirà a questa cosa. E per quanto riguarda, andiamo avanti e arriviamo all'autore del libro, che è qui, che ci attende da ormai... Bravo Federico, ti amano. No, è qui che ci attende da un po' e credo che si sia anche un po' divertito, no? Nell'ascoltare un po' queste nostre cose da lettori, molto probabilmente da lettori interessati del libro. A lui, oltre a commentare questi ultimi accadimenti, gli accadimenti di questi ultimi tempi, io volevo chiedere una cosa, una spiegazione rapida sulla le linee guida della CEI su riguardo la pedofilia, sono state piuttosto interessanti. Ma tu laggiù dovevi andare. Beh, a tutti, grazie. Grazie di essere qui. Sì, dunque, prima di rispondere alla domanda, allora, magari una battuta proprio di 30 secondi per una cosa che ha detto Fulvio alla fine. La Chiesa si potrebbe contrastare nel breve periodo toccandola sul portafoglio, secondo me. Questo potrebbe essere un inizio. E poi magari, ecco, anche legandomi alla questione delle linee guida, magari lo sviluppo pure questo pensiero. E, poi, no, faccio i ringraziamenti chiaramente alla Libreria Rinascita, che ci ospita, insomma, in maniera così calorosa. Assolutamente, e rinnovo i doverosi ringraziamenti alla coraggiosissima casa editrice, la Sinodoro, che mi è venuta a cercare, a chiedere di scrivere questo libro in maniera del tutto incosciente. E niente, grazie a voi anche, ecco, insomma, per tutte le cose che avete detto. Infatti io avrei continuato tranquillamente a sentirvi parlare, perché... stavano uscendo fuori sicuramente spunti interessantissimi. L'attualità, con la Chiesa parlare di attualità è sempre piuttosto imbarazzante e problematico, perché le linee guida che, ecco, che la Conferenza Episcopale ha pubblicato due giorni fa sono praticamente identiche all'ultima. L'ultima norma che il Papa Ratzinger aveva preteso ed emanato in pompa magna, mi sembra 2 o 3 anni fa, insomma, cioè soprattutto nel punto essenziale, che è questo che riguarda l'atteggiamento che i vescovi italiani sarebbero tenuti a mantenere nei confronti di questo crimine, cioè se fossero dotati di buon senso sarebbe chiaramente nel momento in cui vengono a conoscenza di un reato di questo tipo, o perlomeno di un presunto reato compiuto, e quindi che c'è l'esistenza di un presunto colpevole, la prima reazione dovrebbe essere prendo e corro al commissariato e denuncio quello che so, poi sarà compito del commissariato verificare se è effettivamente vero quello che il vescovo è venuto a sapere. No, allora il problema, perlomeno qui in Italia, non se lo pongono assolutamente. E in Italia abbiamo un grosso problema, perché questa mancata inserimento dell'obbligo dei vescovi di denunciare quello di cui vengono a conoscenza, chiaramente al di fuori del confessionale, e loro vengono a conoscenza di tante storie al di fuori del confessionale, quindi potrebbero tranquillamente andarle a raccontare a chi di dovere, o quantomeno potrebbero fare in modo, se la cosa avviene in ambito confessionale, di far filtrare, insomma, la notizia e sensibilizzare, insomma, ecco, magari le persone vicine al presunto colpevole per fare una chiacchierata col poliziotto di turno. Nel resto del mondo le linee guida sono molto più varate dalle diverse conferenze episcopali, sono molto più coraggiose di quelle degli italiani. E io ho una mia teoria piuttosto maligna, adesso magari cerco di spiegarla, ma per dire, in Sud America, in Cile, dove sono accaduti scandali molto, molto, molto pesanti, l'obbligo di denuncia c'è, e c'è già da un anno. Poi insomma, potrei fare un elenco, ma non me li ricordo. Comunque la questione che insomma, imporrebbe anche un atteggiamento morale, comunque, visto che stiamo parlando di un'istituzione che si erige, insomma, esempio universale di moralità e di etica, dovrebbero quantomeno avere un atteggiamento, insomma, di un certo tipo. Invece qui in Italia non c'è. Provo a spiegare perché la questione delle linee guida e quindi un rinnovamento, cioè un rinnovo di un atteggiamento nei confronti di un crimine che comunque per la Chiesa continua a essere solo un peccato, secondo me ha una radice, quindi diciamo questa novità, che appunto dicevo, era una battuta, ma fino a un certo punto è puramente economica. La Chiesa si è fatta due conti a partire dal sono molto cattivo su questo, ma a partire dallo scandalo che è scoppiato 10 anni fa negli Stati Uniti, e ha scoperto che un potere millenario di circa 2000 anni, che si regge su usurpazioni, su stragi, su genocidi, sull'editto di Costantino che era un falso e che quindi la città del Vaticano sarebbe territorio nostro, ma invece se lo sono preso loro, insomma, tutte queste cose. Quindi lo chiamano stesco del diavolo, ma poi alla fine per loro non lo è. E, insomma, nel 2000 scoppia questo scandalo, fine 2001 scoppia questo scandalo negli Stati Uniti, che impiega diversi mesi a venire alla luce, semplicemente perché il rapporto più imbarazzante per la Chiesa Cattolica statunitense viene reso pubblico praticamente il giorno prima della strage delle due torri, l'11 settembre, per cui ha impiegato un po' di tempo a solleticare la curiosità dell'opinione pubblica americana, curiosità che poi si è sviluppata verso la metà del 2002, e a quel punto un combinato disposto tra opinione pubblica e stampa particolarmente sensibile all'argomento ha fatto sì che molte vittime cominciassero a prendere il coraggio di denunciare quello che avevano subito, anche a distanza di 30-40 anni, cioè erano persone che per appunto 10, 15, 20, fino a 40 anni ci sono casi, avevano tenuto dentro questa devastazione subita, perché non avevano, cioè non c'era proprio la risposta, nemmeno dai familiari, l'attenzione, l'interesse, la capacità di sentire e quindi di dare un credito alle parole che, insomma, appunto al vissuto che queste persone si portavano appresso. Cioè, da quel momento in poi, arrivo poi all'Italia, negli Stati Uniti, dunque siamo nel 2002, fino al 2010, l'ultimo dato dovrebbe essere il 2009, insomma, così, sono saltate per aria 11 diocesi statunitensi per bancarotta. La Chiesa Cattolica statunitense, quindi la Conferenza Episcopale statunitense, ha dovuto in fretta e furia chiamare dall'Italia un giovane, un ragazzo, un personaggio particolarmente abile nella compravendita immobiliare, quindi per mettere sul mercato parte del patrimonio immobiliare della Chiesa statunitense, per iniziare a pagare i risarcimenti pregiudiziali alle vittime o alle presunte vittime, o comunque erano vittime, perché se hanno pagato i risarcimenti evidentemente qualche problema c'era stato. E pregiudiziali perché? Perché la Chiesa statunitense ha fatto di tutto per non arrivare mai in tribunale, perché chiaramente qual è il punto? Il danno d'immagine sarebbe stato incalcolabile, e poi l'hanno calcolato, e poi ve lo dico. Incalcolabile, il fatto sta che in meno di 15 anni la casa statunitense ha dovuto sborsare, c'è chi dice 2 miliardi e mezzo, c'è chi dice 3 miliardi e mezzo, ma comunque tanti, tanti dollari per, appunto, per diciamo, preservare una certa immagine parecchio incrinata. Il crollo d'immagine della Chiesa cattolica statunitense poi ha fatto sì che si sviluppassero molte piccole chiese locali, questi predicatori che noi vediamo in televisione molto buffi, ma che hanno preso agio, appunto, perché a poco la Chiesa, diciamo quella ufficiale, ha perso un po' di credito, ovviamente. E questa cosa, questo fatto di perdere credito agli occhi dei fedeli, che poi sono quelli che pagano, offrono, fanno le offerte piuttosto importanti, e, diciamo, la Chiesa qui al di qua dell'oceano ha fatto di tutto per impedire che, appunto, quel tipo di problema si verificasse pure qui da noi, e invece si è verificato per colpa, appunto, di quello che diceva Raffaele Carcano, cioè dell'esperienza irlandese, che evidentemente non si aspettavano, che dopo ben cinque indagini governative, che probabilmente, appunto, sia la Chiesa che anche istituzioni civili, quindi, perché comunque c'era una connivenza tra la polizia irlandese e gli organi, diciamo, le gerarchie ecclesiastiche irlandesi, non si aspettavano che certi magistrati andassero fino in fondo, e che quindi alla fine riuscissero a pubblicare indagini che riguardavano praticamente tutta la storia scolastica, dico tra virgolette, dell'irlandese dal secondo dopoguerra fino al 2009. E quello che diceva Fulvio, appunto, cioè, in un rapporto firmato da una donna, guarda caso, giudice Murphy, non mi ricordo il nome, Yvonne Murphy, c'è scritto che la pedofilia è un fenomeno endemico alla Chiesa d'Irlanda. Mi sembra una endemico alla Chiesa d'Irlanda, cioè una denuncia d'Irlanda, appunto. E che cosa ha fatto il premier Enda Kenny nell'estate del 2011? Di fronte al quinto rapporto che usciva fuori e ribadiva quello che era stato scoperto nelle indagini precedenti, cioè che era devastante quello che accadeva nelle scuole pubbliche gestite dai sacerdoti, dalle suore cattoliche, e nelle scuole private gestite da e anche negli orfanoprofi. Magdalene è un film terrificante, cioè un film eccezionale, racconta una storia terrificante, ma diciamo il dramma si svolgeva in questi non so, riformatori forse li chiameremo noi, che diciamo accoglieva ragazze madri, ragazze che avevano avuto un passato difficile con dei figli, eccetera, eccetera, e venivano sistematicamente violentate in tutti i modi possibili da queste signore in tonaca, e vabbè, arrivo un po', ecco la cosa. Enda Kenny, il premier irlandese, a luglio dello scorso anno è andato in Parlamento e ha chiesto pubblicamente al Vaticano di smettere di interferire con le indagini della magistratura irlandese. E veniamo all'Italia. Un anno prima di questo intervento del premier irlandese, lui diceva giustamente, pensate un po' a Monti, ma pensiamo a Berlusconi, che alza il telefono e dice a Bagnasco non ti devi permettere, anzi ti devi sbrigare a tirar fuori le linee guida, ma in queste linee guida ci devi pure scrivere che i tuoi vescovi devono collaborare con i nostri magistrati. E un anno prima, appunto, della questione irlandese, era il primo aprile, Pietro Forno, che è un magistrato in Italia, ecco, l'equivalente, diciamo così, anche sono morti, non so, di Falcone e Borsellino nell'ambito dei crimini a sfondo sessuale, tra virgolette. Lui dirige una particolare sezione, adesso mi sembra che sia a Milano, prima stava a Torino, è il massimo esperto in Italia di queste storie, sia per reati nei confronti delle donne, ma soprattutto anche nei confronti dei bambini. Non ci sono molti magistrati che si impegnano in queste cose. E fu intervistato dal giornale e disse, il giornale, e questo, quindi l'intervista era assolutamente valida, doppio praticamente, e dice testualmente che lui non gli era mai capitato nella sua lunga esperienza che di vedere entrare alla sua porta non dico un cardinale, ma nemmeno un sacerdote che venisse a raccontare che dentro la sua parrocchia il sacrestano o il collega sacerdote, insomma, non so come si chiamano i colleghi sacerdoti, insomma, probabilmente non si comportava da vero educatore, diciamo così. E ecco, due giorni dopo il ministro era Angiolino Alfano, dispone un'indagine interna nei confronti del